sigi sigi sigi sa. Hey hey hey hey. Asiki sigi sigi, asiki sigi sigi, asiki sigi sigi sa. Hey hey.